Patrizio, ciao, sono Maridì. Ti ringrazio innanzitutto di aver accettato il nostro invito. No, ma non ti preoccupare, immagino, capisco insomma i tempi che possano esserci per la radio e per la televisione. Allora, noi eravamo molto, ci tenevamo a questa intervista perché Brussellando, la nostra trasmissione che è in onda già da 3 anni, ha scelto come tema principale, come fil rouge, il viaggio. Quindi molto spesso noi ci intratteniamo a parlare delle diverse sfaccettature che riguardano il viaggio. E questo Vabbè, il viaggio è tutto, parlando di viaggi si parla di qualunque cosa. dipende, poi dipende dal punto di vista che noi gli vogliamo dare. Allora questa sera Maridì chiede a Patrizio Roversi che cos'è il viaggio. Guarda, da piccolo per me il viaggio era sognare stando seduto su una poltrona e leggendo magari un libro illustrato, un libro di geografia o un libro di Salgari che mi raccontava le avventure di Tre Malnike piuttosto che del Corsaro Verde, del Corsaro Nero. Quindi io sono di una pigrizia e di una, diciamo così, sì, posso dire, insomma, fifa terribile del viaggio. Sono di quelli che quando deve lasciare casa chiude il gas per 9 volte, poi alla fine rischia quasi di rompere la manopola per essere sicuro che l'ha chiusa bene. E per fortuna nella mia vita ho incontrato Susi che in qualche modo mi ha costretto a violentare questa mia natura pigra e piuttosto timida e tremebonda e che mi ha trascinato da un certo punto in poi in viaggio. Il primo viaggio l'abbiamo fatto in India, era molti anni fa, a cavallo, sì, dagli anni 80-90, insomma, quindi è stato un viaggio vero e proprio, nel senso auto-organizzato, con poche idee, molta improvvisazione, un sacco di errori tipici proprio da turisti per caso, però è stato anche il primo viaggio, la prima puntata di Turisti per caso, perché prima di partire Siusi per motivarmi mi ha regalato una piccola telecamera. Allora c'era l'8 wideband, era un sistema tecnico ormai assolutamente passato di moda. E attraverso queste immagini poi abbiamo montato la nostra prima puntata, l'abbiamo mostrata a Giovanni Minoli, che allora era un capostruttura di Rai 2, dirigeva Mixer, e lui molto carinamente ci ha incoraggiato, l'ha mandato in onda, è andata bene. E dopodiché il viaggio per me è stato organizzare, diciamo così, un'esperienza dalla quale puoi trarre un lavoro, e cioè le puntate di Turisti per caso. Per Siusi invece il viaggio è qualcosa di più, lei si appassiona moltissimo, si documenta, è lei fondamentalmente che traccia la rotta, ecco. Io cerco poi di seguirla e fare la mia parte, però insomma da allora il viaggio è diventato, sì, perché no, anche un lavoro, cioè abbiamo fatto di una passione un lavoro e di un lavoro una passione, ci sono i lati positivi e negativi. Quindi da questa tua, diciamo, non predisposizione per il viaggio nasce poi il titolo Turisti per caso? Ma il titolo Turisti per caso, sì, è nato probabilmente anche questo per caso, da un'altra intuizione di Siusi. Ci piaceva moltissimo proprio perché è giusto nel viaggio provare a cogliere l'attimo, lasciarsi andare, a perdersi. Io ci riesco poco, ti devo dire, in realtà cerco di organizzare tutto appunto per esorcizzare un po' di timore che mi viene spesso quando vado in viaggio. Siusi invece riesce di più a, diciamo, a combinare anche guai, a perdersi, a improvvisare, a vivere il momento, a vivere il presente e quindi trae dalle situazioni, se vuoi, molti, molti più stimoli. Tra l'altro, appunto, sostiene Siusi che il caso, cioè il fatto, in realtà è più importante degli dèi, quindi non bisogna pensare che caso significa veramente caos, è tutt'altro. Il caso è, diciamo così, il tessitore di vari destini che viaggiando incroci. Tu hai una carriera insomma abbastanza variegata, hai cominciato insomma con l'animazione teatrale, il teatro di strada, diverse performance. E come senti che sia cambiata rispetto a queste diverse fasi della tua vita, la tua concezione dell'arte, di fare arte e di condividerla poi con il tuo pubblico? Guarda, mi dispiace deluderti, ma io non mi sento un artista. artista, semmai un artigiano, nel senso che l'artista è colui che in qualche modo distilla qualcosa, diciamo, di estremamente personale, che in qualche modo arriva in maniera astratta a stimolare poi il vissuto di coloro che guardano la sua opera, che sia un film, che sia un quadro, che sia una musica. Io mi sento molto più artigiano agricoltore, aderente alla terra, sarà il mio peso, quindi in qualche modo racconto, insomma, le esperienze che riusciamo a fare e non credo che abbiano il respiro dell'arte, ma semmai appunto quel dignitoso artigianato che comunque difendo moltissimo. Tra l'altro arte spesso implica per forza un processo che a sua volta implica sofferenza. Io godo invece nel lavorare, quando sto al montaggio con i montatori e le montatrici a cercare di mettere un'immagine di fianco all'altra, è veramente un processo creativo, artigianale, insisto, estremamente gratificante e bello. Anche qui nella nostra coppia, che da questo punto di vista almeno mi sembra di poter dire molto ben assortita, chi non è mai soddisfatta, chi in qualche modo ha un afflato artistico e si usi, io invece cerco così di essere un professionista, di realizzare dei prodotti che poi vadano sul mercato ma si facciano in qualche modo apprezzare, anche se non per la qualità ma almeno per l'onestà. Credo che tu ci riesca molto bene, anche perché tutto sommato ci sono artisti, ne cito uno, anzi artigiani, così come erano definiti allora, tipo Brunelleschi, che anche, insomma, voglio dire, che ci ha lasciato. Avrei voluto da piccolo anch'io fare l'architetto, perché mio babbo era geometra, ho sempre frequentato cantieri, ho sempre guardato lui che progettava magari una piccola casa piuttosto che una stalla, perché era un geometra di campagna, tra l'altro, che ha lavorato anche anni e anni in un consorzio di bonifica, quindi in campagna. E no, mi sarebbe piaciuto da grande fare l'architetto, poi alla fine ho fatto il salto in banco, appunto il caso ci porta così. In viaggio, vi porta in viaggio. Daniele dalla regia ha anche una domanda per te, Patrizio. Patrizio, io sono Dani M e come te, nel senso, io sono bolognese, sono qui a Bruxelles da 5 anni, tu lo so che sei bolognese di adozione, ma Susi invece è proprio bolognese di nascita. Lei è bolognese doc. Senti, tu che cosa, quando vai in viaggio, che cosa porti, diciamo, con te di bolognese o di italiano, visto che voi viaggiate su tutto il globo? Ma guarda, in termini di oggetti pochissimo, io sono assolutamente per il bagaglio più leggero possibile, ho soltanto una malattia agli occhi, ho il glaucoma, tra l'altro ne approfitto per lanciare un appello, fatevi provare tutti quanti la pressione oculare, perché è una malattia totalmente asintomatica e quindi se non te ne accorgi diventa gravissima. Chiusa parentesi, quindi in pratica mi porto obbligatoriamente i miei colliri e basta, perché andare in giro col bagaglio leggero è la cosa migliore del mondo. Poi metaforicamente invece mi porto molte cose di Bologna e dell'Emilia Romagna, è un atteggiamento, che è l'atteggiamento che io ho riscontrato qui in questa mia patria di adozione, perché ripeto vengo dalla Lombardia, ma ho veramente ammirato i bolognesi per la loro capacità di intessere relazioni. Cioè un bolognese non sta mai zitto, attacca bottone con tutti, è curioso di tutto. Io ricordo quando ero ancora mantovano, che andavo in giro, magari mi ricordo con delle automobili scassatissime o delle moto che si rompevano, bene, chi si fermava sempre a chiedermi se avevo bisogno d'aiuto, eccetera, era sempre invariabilmente un bolognese, che poi cominciava a dire sì, perché questa moto, io me ne intendo, cambia il carburatore, eccetera, eccetera. Quindi questa capacità di comunicare, questo modello anche di relazioni umane, tu mi capisci? Cioè, sì, sì. I conflitti noi bolognesi, perché ormai mi ritengo tale, cerchiamo sempre di prevenirli, di mediarli, no? E quindi mai contrapporsi, ma sempre proporsi in maniera appunto positiva. Questo atteggiamento è stato un po' la nostra bandiera, come abbiamo fatto in giro del mondo. Il presidente della regione, quando ci ha dato il suo viatico, ha detto: portate in giro questo spirito emiliano-romagnolo. E noi abbiamo cercato davvero di farlo, abbiamo trovato tanti emiliano-romagnoli in giro per il mondo che invariabilmente, chi più chi meno naturalmente, mantenevano questo spirito. Ho capito. Bene, e ancora una curiosità, diciamo, intellettuale nei tuoi riguardi. Ho letto su un articolo, ecco, poi sarà a te di confermarlo, io ormai sono in Belgio già da quasi un decennio, quindi purtroppo il contatto con la realtà italiana a volte viene meno, ma sei stato anche attore in comunque... Sì, ma cioè, poverino, ci ho provato in 2 o 3 occasioni, nel senso che ho fatto una posa, no, con nell'ultimo film di Fellini, La voce della luna, solo che Fellini cambiava sempre idea, quindi una posa sono poi diventate 4 o 5. Poi ho fatto un film con Maurizio Nichetti, Volere volare, che mi è piaciuto molto fare, secondo me gliel'ho rovinato perché gli altri attori erano bravissimi e io no, ma comunque pazienza. E dopodiché sì, ultimamente ho partecipato con la regia di Ambrogio Lo Giudice a uno sceneggiato televisivo, ho fatto il personaggio di Micober in David Copperfield. Vabbè, niente male comunque, insomma. Beh, insomma, lascia stare, va là. Va bene. Ho anche fatto una scuola di teatro da piccolo, insomma, ero già grande, qua a Bologna, ho fatto la scuola di Alessandra Galante Garrone, e purtroppo lei è scomparsa, la scuola però c'è ancora, ed era una scuola che utilizzava il metodo di Lecoq, cioè cercare il proprio personaggio, il proprio clown, partire dai propri limiti per caratterizzarsi. Una scuola fondamentale, importantissima. Io non ero un bravo studente in questa scuola, naturalmente, almeno in questo, era molto più brava Siusi, con noi c'erano altri compagni di scuola che poi hanno fatto gli attori, hanno avuto un grosso riscontro, non mi sono mai considerato un attore, cioè non riesco, diciamo così, a immedesimarmi più di tanto, rimango un personaggio, diciamo quello che una volta si poteva definire un caratterista, non c'è niente di male, in pratica riesco a fare me stesso, ecco, riesco a fare tante altre cose. Che cosa ci consigli allora per questa imminente estate? Quali sono i tuoi suggerimenti per i nostri ascoltatori? Ma guarda, allora, siamo in Europa e quindi non posso limitarmi all'Italia, ma in linea di massima, secondo me bisognerebbe riscoprire il corto o cortissimo raggio, cioè le gite dietro casa, sotto casa, i percorsi nella natura, l'agriturismo piuttosto che il percorso a piedi, il percorso a cavallo, in bicicletta, lungo i fiumi, secondo me, secondo noi che stiamo appunto curando un progetto che si chiama Slow Tour, questo tipo di approccio, no, che ti porta lentamente a assaporare le risorse del territorio è un'ottima idea che può prendere il posto dei viaggi lunghi che magari in un periodo di crisi come questa diventano abbastanza costosi. Detto questo, poi ci sono dei posti in giro per il mondo meravigliosi. Quando ci chiedono a me, a Siusi, ma qual è il viaggio più bello che avete fatto? Io almeno rispondo sempre che un viaggio è un po' come un vestito su misura, no? Un paio di scarpe, ecco, deve essere della tua misura, deve starti bene. Quindi in realtà andiamo dovunque purché in qualche modo siamo preparati, cioè in qualche modo dobbiamo aver fantasticato su questa meta, essere motivati, perché tornando all'inizio del mio discorso, io sono uno di quelli che fa fatica ad abbandonare la casa, quindi mi devi dare un buon motivo, certo. Mi devi smuovere, darmi una motivazione. Beh, mi sembra che insomma tutto sommato sia così, poi ovviamente a ciascuno di noi di trovare anche lungo il percorso quelli che sono i propri obiettivi, d'altronde se andiamo in vacanza e siamo in 2, ognuno troverà proprio poi la propria dimensione. Siamo attenti ad andare in 2 in vacanza, perché no, va bene andare in 2, bisogna, perché, però quello dei 2 che va a rimorchio rischia moltissimo, perché se ti portano in un posto che a te non ti importa nulla, che magari non ti corrisponde come clima, eccetera, eccetera, hai voglia di amare il tuo compagno, la tua compagna di viaggio, ma dopo un po' diventi insofferente, quindi anche per questo noi spessissimo primo, un po' perché uno dei due deve rimanere a casa ad accudire a nostra figlia Zoe, ma anche perché abbiamo gusti diversi, spessissimo noi, io e Susi, divarichiamo i nostri percorsi. Anche se siamo nello stesso paese, io vado a vedere certe cose che interessano me e lei va a vederne altre che interessano lei stessa. Beh, insomma, è anche interessante come suggerimento a tutte le coppie che sono in ascolto. Prima di salutarci, Patrizio, perché come sai i tempi radio sono effettivamente tiranni, c'è qualcuno che vorresti salutare in particolare dai microfoni di Bruxellando? Ma guarda, e visto che siamo qui in campo internazionale, io ho un cuginetto, Flavius, che va su e giù da Bruxelles a Vienna, e magari se mi sente, non lo so, lui è un viaggiatore vero, non per caso, perché il suo babbo, cioè mio zio, era addetto culturale in varie ambasciate in giro per il mondo, quindi lui ha vissuto veramente in giro per il mondo. Tra l'altro lui è stato il primo che alla venerante età di 30 anni, quando sono partito per il mio primo viaggio in aereo in India, mi ha spiegato cos'era il check-in. Io ho detto, scusa, il soundcheck, perché ero più esperto di concerti. No, il check-in è diverso dal soundcheck. E allora mi ha portato, mi ricordo, all'aeroporto di Milano, e mi ha spiegato, devi dire così, devi fare così, dagli il passaporto, dagli il bagaglio, insomma mi ha spiegato il bon ton del viaggiatore in aereo, perché io prima sinceramente non c'ero mai stato. Eh beh, c'è sempre una prima volta, e meno male che eri ben guidato da un esperto viaggiatore. Un'ultima cosa, quindi voi siete molto attivi su questo sito internet Turisti per Caso? Sì, beh, di siti in realtà ne abbiamo più di uno, turistipercaso.it, poi abbiamo anche velistipercaso.it, che è quello che si occupa dei viaggi di Adriatica, del mare, eccetera, eccetera, poi abbiamo nomadizziamoci.it, dove si usi teorizza, no, questo arcaico futuro, questi comportamenti legati al nomadismo e alla sua storia, poi il giornale del cibo.it, e vabbè, insomma, diciamo che internet lo stiamo esplorando il più possibile. Beh, anche internet è una straordinaria forma, insomma, di viaggio, che ci permette mai come oggi di restare in contatto. Sono relazioni, facilita le relazioni, questo è molto importante. Sicuramente sì, in un'era così veloce, meno male che riusciamo magari ancora ad avere un pensiero per il viaggiatore della porta accanto, magari. Certo, fermo restando che internet non va mitizzato, cioè le relazioni sono quelle umane. Assolutamente. Va benissimo, cioè se è uno strumento, allora è davvero uno strumento straordinariamente utile. Ebbene sì. Patrizio, Bruxellando, Radio Alma, quindi Marie D, Dani M e tutta l'equipe di Bruxellando ti ringraziano per la squisita disponibilità, e speriamo magari di averti nuovamente nostro ospite, magari per la prossima edizione di Bruxellando, con nuovi suggerimenti di viaggio. Ma sono molto felice e vi ringrazio per la vostra ospitalità e la vostra gentilezza. Allora, a prestissimo. Ciao a tutti. Ciao Patrizio, ciao. Ciao, ciao, grazie. Cari amiche, cari amici, come avete quindi potuto ascoltare, è straordinario Patrizio Loversi che ci ha praticamente illuminato su questo straordinario sentiero, viaggio intorno al pianeta, ricordandoci giustamente che non ci sono poi le mete, quelle più distanti, ma ci sono anche quelle un po' più prossime, più vicine, che ci invitano a riscoprire magari i luoghi già conosciuti o che immaginavamo di conoscere. Vi do un esempio. Qualche tempo fa, per una serie di ragioni, ci siamo trovati a non uscire per un paio di giorni, insomma, presi da uno studio matto e disperatissimo, e dopo qualche giorno passeggiando nella vicina Chaussée d'Ixelles abbiamo notato che una nuova galleria era sorta, così quasi, insomma, out of the blue. E questo dimostra come in realtà anche intorno a noi le cose cambiano, tendono a cambiare, meno male, perché se non ci fosse il cambiamento, se non ci fosse la voglia di scoprire, di esplorare nuove mete, nuove piste, non ci sarebbe nemmeno la voglia di mettersi in gioco e quindi di migliorare questo nostro mondo in generale, le nostre realtà che ci circondano poi nello specifico. Bruxellando, come sapete, ormai da 3 anni svolge questo ruolo secondo me straordinario di interfaccia tra quelle che sono le nostre origini italiane e quelle che poi sono gli aneliti, le aspirazioni in un contesto un po' più internazionale, che può essere rappresentato in questo caso da Bruxelles. E in questo in realtà io ritrovo molto il discorso di Patrizio, quando ci diceva sì, non dimenticatevi infatti dei luoghi, quelli vicino a voi. Noi siamo quasi al termine di Bruxellando anche per quest'anno, per questa terza edizione. Sono state tante le novità, gli ospiti che ci hanno accompagnato dallo scorso settembre e fino ad oggi. Stiamo pensando con Daniele, insomma, di farvi un piccolo regalo che non potrà essere ovviamente radiofonico, ma visibile sul nostro blog, proprio per ringraziare tutti coloro i quali siamo riusciti a soddisfare quest'anno e tutti coloro i quali sono già in lista d'attesa per la quarta e attesa edizione di Bruxellando. Vedo Dani M scalpitare in regia. Sì, quindi ci sarà anche un piccolo regalo per il nostro George. Poi ci sarà un piccolo regalo per il nostro George, che come voi tutti avete ormai intuito è per noi diciamo insostituibile, prezioso per gli spunti di riflessione, per la sua capacità di cambiare ed adattarsi anche rispetto alle circostanze. Molto spesso ha dovuto leggere e improvvisare, insomma, per quella sua forma di artista straordinario che si ritrova ad avere, insomma, poesie, spezzoni di libri, proprio perché lui è bravo e ha un potere con la voce e riesce ad incantare. Sono tante le poetesse, le scrittrici in particolare, che ci ringraziano dopo aver ascoltato la lettura del nostro caro George. Ovviamente un saluto è obbligatorio, quasi necessario, alla nostra Fiordaliso, che quest'anno in maniera significativa ha consolidato quella che era una embrionale esperienza dello scorso anno dell'Imbrangolo, che quest'anno si è concretizzata anche in un sito, secondo me, in un blog, scusate, secondo me molto funzionale. Il nostro sito ha superato, ormai sforato, le 5.000 visite e insomma noi siamo veramente grati al nostro pubblico, a tutti coloro i quali sappiamo essere numerosi, che riescono a seguirci dall'Italia proprio grazie a questa straordinaria forma di comunicazione che ci riviene dall'internet. E ovviamente ringraziare anche Radio Alma, l'equipe italiana in particolare, e Dani M. Regia, che ha sempre risolto, insomma, i problemi che si sono trovati, insomma, nel tempo. Ne abbiamo avuto vari e diversi, qualcuno magari si ricorderà. No, grazie. E insomma, la sottoscritta anche quest'anno ha cercato di soddisfare, di mettere insieme un programma che potesse piacere un po' a tutti, sapendo che probabilmente accontenta tanti e ne scontenta qualcuno, ma insomma questo poi è il ruolo dell'arte in generale. No, insomma, è stata una grande annata, grazie Merdì. Questa è quindi, come avete potuto intuire, per quest'anno la nostra ultima puntata. Noi non potevamo che terminarla che in compagnia di un grande viaggiatore come Patrizio Roversi, e ci fa davvero piacere, insomma, condividere e aver condiviso ancora queste emozioni con voi. Prima di salutarci lascio la parola un attimo a Daniele. Sì, volevo ricordare a tutti i nostri ascoltatori che durante il periodo di pausa estivo, che va grosso modo da fine luglio fino a settembre, comunque i nostri ascoltatori possono seguirci sul nostro blog, che è bruxellando.blogspot.com, dove continueremo a segnalare tutte le iniziative culturali più importanti e dove i viaggiatori di internet potranno incontrarci. Beh, io prometto che per la quarta edizione imparerò a memoria il nostro blog, lo prometto qui nell'ultima puntata di Bruxellando, la terza serie, ahimè, è una di quelle cose che probabilmente riuscirò ad imparare. Ma probabilmente il blog è dentro di te, Mardì, per probabilmente, chissà. E anche per il blog ci sono delle novità che speriamo, insomma, di realizzare, e noi siamo umilissimi volontari di questa nostra grande radio, che è per l'appunto Radio Alma, e vi assicuriamo che per la quarta stagione, e lo so, è l'emozione, quindi volevo ulteriormente salutare qualcuno, e non me ne voglia se ci penso soltanto adesso, però sapete, aver intervistato Patrizia, aver parlato di viaggi, parlare insomma di queste cose, volevo ringraziare anche Stefano, perché proprio grazie a questa collaborazione con Stefano, lui quest'anno ha lanciato il suo jazz dintorni, Brussellando ha avuto la possibilità di lanciare una rubrica dedicata alla penna del diplomatico. Questa rubrica mensile ha visto protagonisti tanti ospiti e hanno riscosso tutti molto successo, un po' perché le tematiche affrontate erano assolutamente attuali, altre perché assolutamente strabilianti, cito le opere di Domenico Vecchioni, a cui rivolgo ancora i nostri migliori saluti, e ringrazio quindi Stefano e ringrazio gli ambasciatori, i diplomatici che hanno deciso di partecipare attivamente alla nostra trasmissione, perché credo abbiano contribuito in maniera sincera a rendere ancora più originale, genuina e importante la nostra piccola Brussellando. Io a nome di tutti quindi vi saluto, vi auguro delle serene vacanze, mi raccomando, state attenti, pensate che le destinazioni restano sempre lì, quindi non abusate della velocità, e ci ritroveremo prossimamente nuovamente ancora su Radio Alma Brussellando, vi ricordo Radio Alma 101.9. Buona estate a tutti.